apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Nicoletti, ho assistito alla trasmissione sul gioco di questa mattina e lo trovo assolutamente vergognoso perché non c'è stato assolutamente nessun contraddittorio. Il gioco molte volte, come lo shopping compulsivo, è associato alla depressione. Di queste cose dovete parlare in radio perché siete una radio seria e non potete far passare il messaggio che giocare è bello. I soldi vanno guadagnati, bisogna dire alla gente che non deve farsi rubare né i soldi né il tempo davanti alla, come si dice, davanti alla televisione, neanche davanti a un computer bisogna farsi rubare il tempo. Questo è il messaggio che deve far passare. Si vergogni perché non ha assolutamente messo in atto un contraddittorio serio in trasmissione. Figuriamoci quanto mi vergogno io, non mi vergogno più di niente, non mi sono mai vergognato, nemmeno da giovane, ma adesso che sono vecchio proprio ho dimenticato la parola vergogna. Devo specificare che l'ascoltatore inviperito non alludeva alla perfetta trasmissione di Oscar Giannino di pochi istanti fa, ma alla detestabile trasmissione che feci qualche settimana fa assieme all'amico e collega Fabio Felici, direttore di Agicos, che è l'agenzia specializzata nel settore dei giochi, che questa mattina è mio complice nuovamente. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gianluca. Alfredo, buongiorno. No. Si vergogni? Si vergogna? No, no, io per niente, anzi volevo dare un buon consiglio, seguito un consiglio di un esperto, dottor Pazzaglia, che scrive anche sui giornali dell'Otto, eccetera, eccetera, che veramente sostiene che bisogna giocare poco ma sempre, perché non si sa quando arriva la fortuna. Ma lei cosa è successo, Alfredo? Perché è così? Anni fa, con il cambio la lira, io con 800 lire ho vinto una cifra abbastanza sostenuta per potermi pagare il mutuo e eliminare il mutuo di casa. Ma lei prova, scusi, per tornare sulla veemente accusa del nostro ascoltatore, io non ho nessun interesse a difendere il giocatore, ma difendo sempre ciò che è oggetto del vituperio e degli inviti a vergognarsi, per principio mio. Lei si sente in colpa che questo mutuo l'ha pagato non con il sudore della sua fronte, non con attività professionali non legate al computer, ma giocando 800 lire? Giocando sempre, perché il gioco dell'otto c'è al martedì, giovedì, venerdì. Io non fumo, non bevo, mi diverto perché sono pensionato. Non ha detto non vado a donne però, No, per niente, mia moglie, sto tranquillo. Ah beh, sta tranquillo. Quindi tutti i suoi vizi sono giocare. Ma pensi che questo esperto di gioco ha dato un consiglio anche ai giovani, perché se potesse capitare una vincita, diciamo, abbastanza sostenuta, si possono anche mettere da parte una cifra per il futuro, no? Beh, guardi, siccome i giovani sono sconsiderati, si sa che se avessero i soldi per le mani li butterebbero tutti. C'è stato anche chi ha pensato a procurare ai giovani un vitalizio, l'ho già accennato Giannino, ma entreremo più nel merito di questo gioco, di questo Win for Life, il gioco che partirà questa settimana, che permetterà di avere un vitalizio di 4.000 euro per 20 anni, invece che avere tutti quei soldi con i diavoli, con il forcone che riempiono di tentazioni, con donne nude, con cornucopie di averi, di frutta, di denari che possono corrompere la nostra anima, avremo un tranquillo vitalizio. Su questo che avrete da dire, 800 24 00 24. Volevo raccontare brevemente la storia di una signora che conoscevo molto bene, che si è rovinata con il gioco. Ha giocato Grazie Vinci, Lotto, pensione intera, affitto di casa, e quindi ha quasi mandato sul lastrico la propria famiglia, quindi non è tutto oro quello che luccica. Potrei citarvi un'infinita fonte scaturigine di rovina degli esseri umani, dai pensieri alle filosofie, alle religioni, all'accanimento per la ricerca di fortuna professionale, a un'infinità, anche gli affetti, anche gli amori, anche le passioni. Tutto rovina se preso in dose eccessiva, probabilmente anche il gioco. Non siamo qua per difendere strenuamente il gioco e i giocatori, ma ci piace parlare, ci piace far arrabbiare chi così facilmente si arrabbia. Eugenio, buongiorno. Buongiorno, io non mi arrabbio, voglio solo dare delle notizie, perché se uno è informato sa meglio come comportarsi. Siamo qua. Niente, io volevo parlare delle videolotterie future, che lo Stato italiano ha fatto con il decreto Abruzzo per prendere 800 milioni di euro per l'Abruzzo, e vuole far installare in Italia 50.000 videolotterie. E secondo lei questo è un bene o un male? No, secondo me è un'esagerazione. Un'esagerazione? Sì, perché sono molto diverse dai Newknot e sono macchine ancora peggio di quelle che sono ai casinò. Sentiamo cosa ne dice Fabio Felici, visto che abbiamo un esperto a tutto tondo su questa materia. Fabio Felici, questo ascoltatore Eugenio, dice: troppe slot machine, anche per una giusta e nobile causa come quella dell'Abruzzo, in realtà sono delle tentazioni che vanno oltre la possibilità di elaborarle. Mi sembra aver capito questo. Ma guarda Gioca, la verità è che le videolottery si inseriscono in un mercato che già c'era, a parte che già esistono nel resto del mondo. Ma io ricordo che nel 2002, prima che i monopoli di Stato prendessero in mano il settore del gioco, questo era un mercato che non esisteva, quelle delle slot dentro, voglio dire, nei bar. In questo c'erano i famosi videopoker, assolutamente illegali, non portavano niente allo Stato, erano spesso in mano a organizzazioni criminali. Quindi ben venga che dal 2002 lo Stato ha ripulito questo settore dichiarando illegali i videopoker, mettendo queste slot che di fatto, innanzitutto, le partite durano, sono da 1 euro, 50 centesimi, insomma poco, e permettono anche piccole vincite fino a 100 euro. Quindi non è che sono delle, diciamo, permettono di cambiare vita in questo senso. È vero che c'è chi esagera, capita di vedere nei bar persone che passano purtroppo del tempo, più del tempo che ci vorrebbe dentro su queste macchine. Però io vedo, scusami Fabio, anche persone che passano più del tempo giusto e lecito e salutare di fronte al bottiglione del vino nei bar, quindi... Esattamente, ma c'è anche chi lo passa dentro i sexy shop, voglio dire, alla fine più del tempo dovuto, nel senso, basterebbe poco. A parte questo, perde un sacco di diottrie, è un problema. No, ma a parte questo bisognerebbe, cioè, meno male che ci sono queste slot controllate dallo Stato, e le videolottery sono semplicemente un'evoluzione, perché permetteranno di avere più giochi, permetteranno di avere una serie di servizi. Ce ne saranno 50.000 sul territorio contro le 400.000 slot che ci sono circa adesso, 350.000, quindi non ci vedo assolutamente niente di male. All'estero funzionano bene, sono controllate dallo Stato. Io faccio il pubblico, permettimi una piccola divagazione, io faccio il pubblico italiano molto cresciuto, quindi voglio dire, attenzione a chi esagera, curiamolo, seguiamolo, massima attenzione. Però da qui, come dici te, a demonizzare col forcone tutti i mali vengono dal gioco, ne passa. Dunque io noto, essendo semplicemente un parvenu, mi occupo di gioco, mi occupo di tante altre cose, non è la mia materia, il mio specifico, mai giocato in vita mia, sono un negato, perdevo anche quando giocavo a scopetta con mia nonna. Una mosca bianca oggi. Sì, no, si sono negato, ma magari potrei prenderci una passione senile, non dico di no, mi appassiono facilmente. Però quello che noto, e per questo mi piace insistere, mi piace provocare, che attorno all'idea del gioco, anche un gioco legalizzato, anche un gioco seguito appunto dallo Stato, anche un gioco che in fondo il cui provento non va a arricchire dei loschi biscazzieri, ma va in fondo per il bene pubblico e il bene comune, è il ritaglio parcellizzato di una passione che serpeggia nella nostra nazione, nei nostri conterranei, su questo non se ne può fare a meno, che è stata regolarizzata, quindi porta profitti allo Stato. Ecco, si è ancora circondato da questo alone sul furio, quasi una condanna, chi gioca fa un'operazione peccaminosa, c'è un forte pregiudizio tipo moralistico attorno al gioco. Assolutamente sì, io guarda, mi ricordo 20 anni fa, anzi 25 anni fa, quando ho cominciato a occuparmi di gioco, memoria degli studi universitari, entrare in una ricettoria del Lotto era una cosa carbonara, le signore si nascondevano quasi per voglio dire, per non far vedere che avevano questa passione, per magari giocare un numero al Lotto, per fare una schedina al Totocalcio, sembrava quasi di fare peccato. Ma guarda, devo dire che in questo senso ha aiutato molto alla fine degli anni 90, nel 99, il Superenalotto, che con quelle grandi vincite ha dato risalto ai media e ha fatto vedere che, insomma, alla fine c'è pure chi vince, voglio dire, c'è pure chi veramente la vita la cambia. Non bisogna, magari l'ascoltatore di prima diceva, io ho pagato il mutuo con questa vincita, e non c'è da vergognarsi, dicevi bene te, non bisogna puntare solo su quello per cambiare il mutuo, per carità, ma si deve vergognare chi le case le ruba, chi le fa in altro modo, e non chi magari si paga veramente un mutuo una casa con una vincita. Ci sono ben altri modi per vergognarsi che quello appunto di risolvere un problema con una vincita in un guarda gioco. Guarda, io la settimana passata ho fatto una trasmissione sulle truffe e truffatori. Trovavo molta più indulgenza da parte del pubblico per i grandi truffatori, per quelli che avevano l'arguzia e l'intelligenza di fare truffe, piuttosto che oggi vedo per i modesti e innocenti, non compiono nessun reato, giocatori. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo... Lei tra quelli che si vergognano o quelli che non si vergognano? No, io non mi vergogno. Gioco su Prenalotto, però ho ragionato su questo gioco e ho trovato un paradosso in questo gioco, perché secondo me se è vero che così sono così basse le probabilità di una vincita, che è come buttare i soldi dalla finestra, quindi è stupido giocare perché le probabilità sono ridicole. È anche vero che, viste le bassissime probabilità, questa è proprio matematica, giocare un euro e giocarne 100.000, le tue possibilità di vincita non cambiano, quindi è stupido non giocare un euro perché hai la stessa probabilità di chiunque altro. Quindi io ho perfezionato questo ragionamento, io mi gioco un euro perché se non giochi non vinci di sicuro. Ma questo euro, mi scusi, questo euro tradotto in piccola felicità quotidiana, quanto vale? Vale il sogno, vale la speranza, vale, è un caffè che non mi bevo, che non mi fa male la salute e mi permette di sognare. Io tutte le Fabio sanzioni... Felici, voleva dirti qualcosa. Ma vale anche quei 10 secondi di adrenalina di quando si vedono i 6 numeri estratti per confrontare la propria schedina. Cioè quell'adrenalina che tante volte è un piacere che viene sottovalutato, che invece fa quasi più piacere della vincita in questo senso. Però quello che dice lei è sacrosanto, un euro giocarne 10.000 è la stessa cosa. Bisogna prenderla come una lotteria, compro un biglietto, se va bene va bene, se non va bene berrò un caffè di meno, ma è esattamente la maniera giusta per affrontare questo tipo di gioco. 800240024, siamo già dentro al pieno del gioco, la piega che ha preso la trasmissione, ma la seguo volentieri, visto che questo è il vostro desiderio, il desiderio di chi ascolta, è quella del discrimine fra lecito e illecito, fra imperativo interiore, fra legge morale e desiderio anche di una piccola e innocente scarica di adrenalina quotidiana. Fabio Felici, io voglio mantenere la promessa che ho fatto all'inizio del programma. Il giornale aveva annunciato che sarebbe partito oggi, ma c'è qualche piccolo problema di registrazione. Comunque questa settimana gli italiani sapranno che esiste Win for Life. Di che si tratta? Si tratta di un nuovo gioco che per la prima volta in Italia darà la possibilità di vincere un vitalizio. Cioè chi saprà concentrare la combinazione vincente di 10 numeri più questa sorta di jolly, questo numerone che dà il computer, vincerà 4.000 euro al mese per 20 anni. 4.000 euro al mese certamente non sono una cifra che cambia la vita, ma però ti permette di vivere con assoluta tranquillità, e quindi è un sistema nuovo per in Italia. Un sistema... signore stipendio, 4.000 euro netti al mese secondo me. Assolutamente. Parliamo di cifra netta. Parliamo di cifra netta, di cifra non rivalutabile negli anni, quindi magari tra 10 anni questi 4.000 euro non saranno proprio tali, però saranno sempre una buonissima cifra. Tra l'altro la curiosità è che sono ereditabili. Quindi, caro Gianluca, chi se le vince una persona di una certa età e magari facendo le corna non ci sa più, la può lasciare in eredità a un'altra persona. Questo ucciderebbe, secondo te, questo pregiudizio? Vincere un vitalizio toglie la paura dei tanti soldi subito che portano alla tentazione di spenderli in donne e champagne. Con 4.000 euro al mese, in fondo, uno ha una vita più che dignitosa, un bello stipendio. Esattamente, ma e poi è un sistema che funziona molto, per esempio, all'estero. Sono andato a vedere cose simili anche come che vanno all'estero, per esempio negli Stati Uniti. Proprio perché ci sono, per esempio, negli Stati Uniti c'è una forte tassazione. Se tu fai una bella vincita a una delle lotterie multistatali, puoi decidere se incassare subito, ma in quel caso te ne danno la metà, o se spalmarti l'intera vincita in 30 anni. Ma ci sono esempi, tipo, che ne so, in Inghilterra c'è questa lotteria che si chiama Birthday Bonus, che ti dà per 10 anni 10.000 sterline ogni tuo compleanno. Quindi hanno trovato anche una forma diversa di darti una sorta di vitalizio. Oppure nel New Jersey c'è questo Lifetime che ti dà $5.000 a settimana per tutta la vita. Quindi all'estero funzionano molto bene. Bene, in Italia si parlava del gratta e vinci che poteva regalare un vitalizio, e credo che in futuro assisteremo anche a una seconda forma di vitalizio, appunto quella che arriverà dalle lotterie istantanee, ma quindi ci stiamo adeguando al resto delle lotterie mondiali. Io la vedo come un'ottima cosa. Poi, tra poco cominceremo a vedere chi si è sistemato con questi 4.000 euro al mese, quindi beato lui, e meno male che è una forma di gioco che secondo me ci sta e ci sta tutta nel nostro mercato. Si evita anche quel pudore per la rincorsa dei parenti e degli amici, che tutti vogliono improvvisamente sono amici se vinci tanti soldi. Con 4.000 euro al mese tutto al più uno può mettere su famiglia, fine. Gli paghi la cena ai parenti. Carlo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Lei è uno che si vergogna o non si vergogna? Ma guardi, io attualmente non mi vergogno, perché poi le accenderò brevemente come mai, ma fondamentalmente io ho fatto le cose, tra le cose peggiori che ho sentito da miei amici, parenti e quant'altro. Io sono riuscito a far mancare i regali di Natale per i miei figli perché me li sono giocati. Sono riuscito Non è bello questo. No, infatti, per questo infatti mi vergogno, come le accennavo. sono riuscito a aprire fino a 9 finanziarie in contemporanea. Cioè, sembra zio Paperino che rompe il salvadanaio dei 3 nipotini, qualcosa del genere. Sembra zio Paperino che lo ruba ai nipotini e poi dopo, quando torna a casa il giorno di Natale, dice: guardate, qualcuno l'ha rubato. Ecco, sono stato anche beccato in questo tipo di circostanze. Ma in quel momento un po' sei vergognato, su, con le mani nel salvadanaio, nel porcellino dei bambini, un po' di vergogna. In quel momento per me era necessario avere una dose di gioco e quindi qualunque tipo di espediente era valido ed era lecito ed era, come dire, apprezzabile da un punto di vista morale affinché io potessi colmare quella crisi di astinenza. E chiaramente, colto in flagrante, questo mi ha dato un minimo di rimorso, però ero troppo preso dalla dipendenza per riuscire a distinguere quale fosse il bene o il male. E adesso si è disintossicato? Adesso sono riuscito finalmente, dopo ricerche interminabili, a trovare un gruppo di giocatori anonimi che mi ha aiutato e attraverso il quale sono finalmente in via di disintossicazione. Ma come lei si siede in una stanza con tutti seduti, cioè: sono Carlo, ho smesso di giocare, tutti bravo Carlo, e batto le mani, come nei film. Esattamente come nei film. Se lei ha visto My Name is Joe, sì, il pezzo iniziale è identico, cioè uno si mette e dice: sono Carlo, sono un giocatore compulsivo. E tutti quanti: ciao Carlo, poi uno fa il suo intervento, gli altri battono le mani per ringraziare. E poi vi abbracciate e piangete? No. Questo di solito non capita. Può capitare che qualcuno che, come dire, parli di una sua grossa emozione o di un danno grosso che ha. Ma ci sono anche donne, perché mi stanno scrivendo su Facebook. Sì, assolutamente. Sul profilo Facebook, che è seguitissimo, quest'anno lo cito poco per non inflazionare questa modalità, il dibattito sta fervendo sul fatto se il gioco sia più maschile o femminile. Ci sono varie correnti di pensiero che dice che le donne sono delle giocatrici del lotto, delle lotterie, e l'uomo invece più per il gioco d'azzardo. Lei, da giocatore redento, cosa ne pensa? Ma guardi, la ringrazio per il redento, purtroppo è un recupero che dura tutta la vita, ma noi giocatori anonimi... Vabbè, tutte le redenzioni sono belle, proprio perché uno può ricadere nella colpa, se no che gusto ci sarebbe. Dipende dall'entità del danno che uno causa ricadendo nella colpa, io ne ho già fatti a sufficienza. Comunque, in giocatori anonimi quello che abbiamo visto è che la popolazione è assolutamente variegata, cioè abbiamo uomini, donne, omosessuali, bambini, persone anziane. Bambini, come bambini? No, guardi... Vanno a disintossicarsi i bambini. Eh beh, quando uno ha un problema e si rende conto fortunatamente di avere un problema e ha la possibilità di trovare una potenziale aiuto. Ma cosa giocano? Alle biglie, alle figurine? Cosa giocano i bambini? Ma guardi, io quando ero piccolo giocavo a carta più alta, giocavo a muretto, giocavo già a soldi. Ho degli amici che hanno iniziato a giocare a 14 anni centinaia di euro. Sembra una cosa irreale, ma purtroppo tutto il mondo del gioco d'azzardo. Una cosa che non si dice molto è che di gioco d'azzardo si muore. Ah, certo. Io vorrei chiaramente sottolineare anche questa cosa qua, perché chiaramente l'aspetto ludico di cui parlavate finora è molto importante. E la gente muore anche d'amore, però sa, non è che fra le cause di morte sono tante. Sì, fortunatamente l'amore non è una dipendenza. Ah, almeno... questo lo dice lei. Si vede che... sì, beh. È fortunato non averne avuto esperienza deturpante. Prego. Margherita, ha ragione, so che sono gruppi per il recupero anche da problematiche d'amore, ma quello che io ho visto ultimamente è che la maggior parte dei giocatori che ho conosciuto, e io per primo, comunque ha pensato almeno più di una volta al suicidio come termine, come dire, eclatante di una come apoteosi della vita da giocatore. Ecco, allora, visto che Fabio Felici, che è il nostro esperto, sta prendendo appunti, noi ci sentiamo tra un istante, la salutiamo, le facciamo i migliori auguri di pronta redenzione, di ricaduta, di successiva redenzione, purché non sia nefasto per lei e per il resto del mondo. Dopo le informazioni dalla borsa riprenderemo a parlare con voi del gioco, delle sue dipendenze, delle sue glorie e dei suoi splendori. Melog 2.0. Ogni cosa è numero, anche l'anima. Il pensiero è antico, farina del sacco di Pitagora. I numeri, i cabalisti li chiamavano Sefirot, sono emanazioni dello spirito di Dio. I numeri sono in tutte le cose e hanno uno spirito, una specie di animismo. Napoli non è un marasma di cose e vite in movimento, ma un insieme di arcani. Quattro! Può sembrare disordine, ma solo a chi non possiede la chiave per capire. È una, è due, a bambola. Il gioco del lotto non è nato a Napoli, ma a Genova, nel 500. A Napoli, però, si è trasformato. Un gioco serissimo, come la vita e come la morte. Che il gioco sia qualcosa di serio, che il gioco affondi nel mistero insondabile che l'umanità ha sempre cercato di decifrare, di capire, che la numerologia sia una scienza antica, profonda, misteriosa, sacra. Questo tutti lo sappiamo, ma oggi, nella contemporaneità, visto che il gioco è così legato a automatismi, al contatto con le macchine che sembrano emanazioni dirette delle forze più sulfure, più oscure, esiste un grande pregiudizio sul gioco, anche quando il gioco è alla luce del sole, non è più consumato in luoghi maledetti, in luoghi clandestini, con gli avanzi della società. È un passatempo quotidiano per professionisti e casalinghe. Ne stiamo parlando questa mattina con Fabio Felici, che è direttore dell'Agicos, che è l'agenzia specializzata nel settore dei giochi. Lo stiamo parlando, data la novità che ci offre appunto l'attualità, il Win for Life, che è l'ultima sfida dei giochi della Sisal, una schedina che fa vincere per 20 anni, per chi vince naturalmente, 4.000 euro al mese, quindi un vitalizio. Allora Fabio, innanzitutto una risposta all'ascoltatore, l'ultimo che ha parlato. Molti si sono preoccupati, mi scrivono, di questi bambini che vanno a riabilitarsi. Sembra poco probabile la cosa, sinceramente. Sì, no, ma i bambini magari si rovinano con i gormiti o con i Pokémon, perché di fatto è illegale il gioco ai minori. Anzi, chi una ricevitoria, un'agenzia di scommesse dovesse essere pizzicata a far giocare un minore, non solo viene multata, ma gli viene chiusa l'attività. Che poi ci sia chi di questi divieti, voglio dire, cerca di aggirarli, magari da qualche parte qualcuno lo farà pure, però di fatto il gioco è vietato ai minori ed è molto controllato, quindi sui bambini io non è che ci andrei cauto. Anche il gioco online ci sono dei controlli. Il gioco online è ancora più controllato, perché per giocare online bisogna avere una carta di credito, dare il proprio codice fiscale, quindi essere assolutamente riconoscibile. Se poi un ragazzo ruba la carta di credito, il codice fiscale al padre e gioca, è impossibile fermarlo. Però voglio dire, il gioco online è assolutamente il più controllato ancora che il terrestre, quindi lo escluderei. E mi è dispiaciuto sentir parlare un attimo di dose di gioco come se si parlasse di una droga, perché parliamo ovviamente partiamo da due presupposti diversi. Insomma, droga vuol dire criminalità, vuol dire migliaia di morti ogni stagione, vuol dire violenza. Il gioco vuol dire Stato, vuol dire erario, vuol dire soldi alle collettività, quindi due presupposti diversi. E questa parola dose, non ti nascondo, mi ha un po' infastidito. Non fai altro che rimettere il dito nella piaga che stiamo toccando. Anche se è un'attività perfettamente legale, è difficile scardinare il pregiudizio se è qualcosa che ha a che fare con gli aspetti bassi, detestabili dell'umanità. Domenico, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Senta, io volevo... Da questa voce la sento che lei si sta vergognando. Sì, sono un pochino, che è anche psicologo lei. No, no, si sente la voce di uno è tipico... È la prima volta che intervengo... Ma prova vergogna? No, anzi. Ah. Io non sono un giocatore assiduo, però per quanto riguarda il signore che ha chiamato prima, diciamo che ha detto che ci vuole è come una droga. Secondo me si sbagliava, perché io, anche se lavoro, ogni tanto gioco, ho vinto anche dei soldi, quindi rimango comunque assuefatto alcune volte dal gioco, perché sono contento. Qual è la media delle sue giocate, per capire? 5 euro a settimana, 10. Non mi sembra che sia una cifra che può mettere in crisi una famiglia. Ecco, apposta. Poi lavoro 12 ore al giorno, quindi mi sembra il mio compito lo svolgo, tutto qui. Poi volevo appuntare una cosa, che in televisione fanno ogni giorno queste pubblicità delle canzoni, suonerie, al costo di 5 euro, che poi vieni abbonato a tua insaputa. Sì, questa è una cosa risaputa. Ecco, quello lo legalizziamo, no? Su media, su tutti i canali, vabbè, non voglio fare nomi... mentre il gioco viene sempre attaccato. Io sono anche iscritto a alcune cose del poker online, alcuni siti, e vedo che è tutto controllato, tutto lì. Quindi una persona lavora il giorno e poi la sera, che ne so, passa un'oretta lì al torneo di poker e vince dei piccoli, come si dice, piccoli incassi, vincite. Quindi credo che va bene così. Poi per un giovane come me, 29 anni, va bene anche questa giocata delle 4.000 euro al mese, magari per 20 anni. Io sono affitto, quindi comprerei casa, tutto lì. Senti Fabio Felici, rispetto a quello che ha detto questo ascoltatore, due cose. Primo, discorso di suonerie, non è questo argomento, mi pare che in realtà sia scritto piccolissimo, non si fa in tempo a leggerlo. Il fatto che sia un abbonamento è scritto, se no altrimenti non potrebbe fare pubblicità. Ma voglio dire, considerando che noi paghiamo dei soldi anche per votare, voglio dire, al Grande Fratello, per votare alla lotteria, quindi voglio dire, sono tutti servizi a pagamento che, voglio dire, non vedo, cioè, uno che si fa pagare per un servizio del genere, perché no, cosa c'è di male nel gioco? Se c'è chi paga, appunto. Mi sembra sciocco pagare soldi per una suoneria. libreria, però se uno lo vuol fare è libero di farlo. Certo. Rispetto a quello che dice questo ascoltatore, esiste un indicatore per capire quella che è la preferenza in generale degli italiani a fronte di questo Win for Life? Cioè gli italiani secondo te sono attratti da questo poco ma per quasi tutta la vita o tanto subito? Guarda, in questo senso ti voglio citare un sondaggio che ha fatto Virgilio.it, dove la domanda era: di una vincita preferiresti incassare tutto subito o un po' al mese? Beh, calcola che ci sono già state circa 2000 risposte, quindi 2000 utenti che hanno risposto, e il 43,2%, quindi siamo quasi alla metà, prendo subito i soldi e scappo. Cioè, voglio dire, preferirebbe incassarli subito. Per il resto abbiamo invece percentuali minori. Per quelli che preferirebbero un tot al mese sono il 21,6%, cioè ricevere uno stipendio come questo di cui parlavamo adesso, il Win for Life. Il 17,5% preferirebbe decidere al momento cosa fare, cioè una volta con in mano i soldi decido se prenderli subito o datemene un po' per volta. Il 17,7% invece sono molto più fatalisti: io vinco, poi come me li date è uguale. Ma io penso, questa è la mia lettura e chiunque può ridiscuterla chiamando l'800240024, che la prima molla del giocatore è quasi una svolta epica della propria esistenza, una soluzione più che onorevole, altro che impiegatizia. 4.000 euro al mese sono uno stipendio di un dirigente di azienda più o meno, quindi non è proprio una cifra da buttare via, ma viene considerata quasi una soluzione impiegatizia rispetto al grande sogno del gioco. Sei d'accordo? Sì, sì, assolutamente sono d'accordo, e infatti è proprio questo, diciamo, le corde che sono andate anche a toccare chi ha istituito questo tipo di gioco. Visto che poi parliamo comunque di vincite, Gianluca, a me mi farebbe, cioè, farebbe piacere chiedere agli ascoltatori se si ricordano più la prima volta in cui hanno fatto l'amore o la prima volta di una grande vincita, perché secondo me vince la seconda. Questo per dare l'idea della grande passione che abbiamo. Io ricordo, appunto, per gli italiani, noi spendiamo circa 800 euro all'anno a testa per il gioco, che ci rende ci fa entrare tra i primi 5 paesi per spesa pro capite nel settore del gioco. Prima Giannino parlava del 3% del PIL, ed è vero, insomma, sono numeri importanti. E se noi questa passione ce l'abbiamo radicata, addirittura, guarda, io allora dirò una cosa blasfema e quindi mi attirerò le ire di qualcuno, addirittura di lotterie si parla nella Bibbia, quando furono assegnati i terreni da Mosè, quindi voglio dire, risaliamo a tempi arcaici, quindi veramente noi ce l'abbiamo nel DNA, e se ci sono questi vitalizi, ben vengano. Sulla questione del ricordo, io trovo anche abbastanza plausibile che si ricordi la prima vincita, perché si vince una volta sola, e uno quando fa per la prima volta l'amore qualche labile speranza di rifarlo almeno un'altra volta nella vita ce l'ha. Lucio, buongiorno. Buongiorno. Lei è un ex vizioso? Sì. Quindi si vergogna? No, perché sono riuscito a passarla bene, nel senso che io fin da ragazzo avevo la passione per il gioco, di tutti i tipi di giochi, quanto da bambino non avevo giocato, forse per quello, e mi piaceva giocare a soldi, a tutto quello che facevo, perciò anche il lotto, i cavalli, le scommesse sportive e quant'altro. Però mi ricordo benissimo la sensazione, che era quella del perdente. Non c'era niente da fare, tu stavi lì a giocare finché non perdevi, e l'emozione era quella lì. Mentre, cioè c'era quasi un gusto masochistico di perdere. Sì, è una cosa di autodistruzione, di farsi del male, qualcosa di accidioso, diciamo. Mentre 4-5 anni fa, quando ho scoperto il poker sportivo, ho studiato questa disciplina attraverso tutti i libri americani, ho imparato a giocare a favore, ovvero non più contro il banco, che è l'ente dello Stato per il lotto, il casinò o quant'altro, ma io sfidare un'altra persona, altre persone con abilità, e essere vincenti. E da lì mi è sparito quel desiderio di perdere. Io oggi, che è il mio lavoro, giocatore di poker professionista, non riesco più a giocare un euro all'otto. Ecco tutto qua. È cambiata proprio la mia vita. Pamela, una donna. Oh, finalmente chiamo una donna. Pamela, buongiorno. Sì, buongiorno. È molto raro sentire donne che parlano di gioco in maniera così spudorata, quindi sono molto felice di sentirla. Ma guardi, io non sono una giocatrice. Non sono una giocatrice, non perché abbia delle reticenze, proprio perché non mi piace, quindi non gioco. Però mi interessa il gioco d'azzardo dal punto di vista dell'economia. E quindi è vero che il gioco d'azzardo ci appartiene, tant'è che molti popoli aborigeni che possiamo studiare oggigiorno hanno dei loro propri tipi di gioco d'azzardo. Ma quindi lei è un'antropologa dell'azzardo, più o meno? Non sono un'antropologa psicologa dell'azzardo, però studiare il gioco d'azzardo dal punto di vista dell'economia significa andarlo a vedere sotto tanti aspetti. Senta Pamela, avrebbe altre cose da dirci su questo argomento? Vorrei sapere perché in Italia non si dà spazio ai casinò, perché il gioco d'azzardo non viene inserito nell'intrattenimento più puro e quindi affrontandolo in maniera molto semplice e naturale, perché non si va a incentivare il mercato del lavoro attraverso l'insediamento di casinò. Melog 2.0. Una volta qui a Napoli c'era stato un processo per lesioni. Protagoniste due donne. La vittima si giustificava davanti al giudice dicendo: «Mi ha chiamato 78, puttana!» I giudici erano costretti a tenere accanto al codice anche una copia della smorfia per decifrare il tenore delle offese. Anche Charles Dickens racconta una storia che non è niente male. 1845, Napoli. Un uomo viene sbalzato da cavallo e quasi ci muore. Un passante lo vede in terra in mezzo al sangue, si butta in ginocchio e gli prende la mano. Se c'è ancora un po' di vita in voi, per amore di Dio, ditemi quanti anni avete. Se avete un po' di pietà per un uomo che ha solo la sua miseria, datemi il numero che me lo gioco all'otto. Esiste anche questo aspetto legato al gioco, ci scrive Salvo, a contrappunto di questa lettura arcaica che abbiamo preso su YouTube del gioco legato alla cabala, legato a Napoli, legato al lotto, legato alle speranze degli afflitti di riuscire a uscire dalla loro condizione giocando, che è molto diverso dal giocatore d'azzardo, colui che va a rubare e salvadanai i bambini, come ha detto prima, colui che rovina la propria famiglia. Io vengo da una città che è Perugia, in cui il gioco d'azzardo sotto Natale e Capodanno ha rovinato intere famiglie, in cui i circoli cittadini nascosti si trasformavano spesso in bischi, in cui i professionisti da un giorno all'altro sono vendere casa, averi, terre, mogli, figli e via dicendo. Quindi conosco perfettamente la piaga del gioco d'azzardo, quanto possa essere deleteria, quanto possa essere sottile il trovarsi sempre con gli stessi amici, sempre davanti allo stesso tavolo, ma con l'idea non detta e non espressa che ognuno vuole portare via tutto agli altri. Beh, mi scrive Salvo su Facebook che non le piace l'idea di una vincita scaglionata, una castrazione, un modo per normalizzare e contenere l'impulso per il gioco, è come mettere rubinetto all'adrenalina, al minimo un piacere, un freno a mano, cioè il freno a mano al piacere e rubinetto al minimo all'adrenalina. Fabio Felici, ricordo direttore di Agicos, agenzia specializzata nel settore del gioco. Sulla domanda dell'ascoltatrice prima della pausa, su perché in Italia non si investe in casinò? Beh, a parte ci sono state diverse proposte per aprire il casinò già nelle sedi storiche, quelle che c'erano ai tempi del fascismo, non so, Bagni di Lucca per dire, o altre città dove già erano presenti dei casinò un secolo fa. Però diciamo che quella di aprire un casinò non so se è una grande idea, perché i casinò stanno andando male. I casinò in questo momento soffrono l'assenza dei giocatori importanti. Non si passa più un weekend dentro i casinò perché sono aumentate le presenze e sono calati gli incassi. Quindi ci sono i giocatori mordi e fuggi dentro i casinò, incassi in calo, si parlava addirittura di chiudere San Vincent perché c'è la concorrenza esterna ormai troppo forte. Ormai si può giocare a poker da casa, tra poco arriveranno anche la roulette e i dadi su internet, si può fare quello che si faceva solo dentro un casinò, adesso si può fare anche da casa. Ma quindi... non è datato anche come immaginario il luogo del casinò, non è più un luogo che ha il suo fascino. Anche perché il casinò era tale perché era un po' isolato dal mondo delle brave persone. Si andava dentro perché dentro si varcava una soglia in cui tutto poteva accadere, si giocava con la fortuna, ci si rovinava, la gente si sparava e via dicendo. Oggi mi sembra un'immagine un po' olografica, la cartolina. Assolutamente, è un'immagine di un film di 50 anni fa. Ormai nel casinò sono strutture moderne con ristoranti, con bar e tutto, però hanno sofferto molto della concorrenza, dell'ampliamento del gioco esterno. Ripeto, mancano più quei giocatori che magari andavano a dormire a Sanremo, a Venezia, a Campione, dormivano, passano 2 o 3 giorni vivendo dentro un casinò. Non ci sono più quei tipi di giocatori. Ho conosciuto persone che simulavano viaggi d'affari alle famiglie, andavano a rovinarsi al casinò, quindi il casinò è stato, aveva questa, poi attorno al casinò c'era tutto un humus di signorine avvenenti, di persone pronte a far spendere i soldi guadagnati magari in una botta di fortuna al tavolo. È assolutamente vero, però ripeto, adesso forse quella di aprire tanti casinò non è una grande idea. Il settore del gioco già dà lavoro a 120.000 persone, quasi 5.000 aziende coinvolte, quindi ha già un indotto importante in termini di forza lavoro. andarli a cercare con l'apertura di un nuovo casinò, non so, ripeto, se è una grande idea, perché oggi il casinò non sembra il business del futuro. Ecco, sentiamo Davide. Davide, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, Davide, lei è arrabbiatissimo perché secondo lei stiamo dicendo un sacco di cavolate. Sentiamo come. Perché, vedete, voi sottovalutate l'aspetto della dipendenza da gioco. Ma io più che dirlo, perché... più che dirlo e ribadirlo, non so cosa fare, non è che posso... Ma no, ma però lei ha detto giro qualche ascoltatore, no, la cosa non mi è piaciuta. Beh, era lì, poteva rispondere l'ascoltatore, mica l'ho detto alle spalle. Ho ironizzato sul fatto della comunità di autoaiuto, ma ironizzare significa sdrammatizzare un problema e aiutarlo a risolvere. Invece io le assicuro che avendo lavorato in comunità di recupero di tossicodipendenze di vario tipo, ci sono delle storie semplicemente agghiaccianti. Ma io potrei raccontargli le storie di amici miei, di compagni miei di scuola, quindi se vuole posso raccontargliele anch'io, so perfettamente, ma l'ho detto, non è che ho nascosto questo. Esatto, e quindi siccome hai detto c'è parecchia sofferenza, il gioco d'azzardo apparentemente non sembra dare dipendenza, perché? Perché non c'è nulla di chimico, non ti metti un ago nella vena, non fumi niente, però è molto psicologico, è profondamente mentale e una volta che sei agganciato non ci scappi più e rischi veramente, come ha detto un signore, il suicidio, metti sul lastrico la tua famiglia, sei disposto a fare le cose più incredibili. Ma lui sta parlando di giochi della CISAL questa mattina, scusi. Ma anche lì, quelli là possono essere semplicemente la porta d'ingresso, qualcosa di più grosso, perché noi siamo una società che è completamente dipendente da tutto, dallo shopping, dai telefonini, dai videogiochi, e il gioco d'azzardo fa parte di questa categoria. Sì, ma io personalmente non sono un proibizionista delle possibilità di tentazione. Io ne parlo perché voglio che si conosca esattamente come sono composte queste fattispecie, le modalità di approccio, come funzionano. Sempre porre davanti lo spauracchio della perdizione. Guardi, lo stesso ragionamento di dipendenza, rispetto molto la sua esperienza e il suo contributo, come vede la faccio parlare tranquillamente, non ho nulla da dire su quello che dice, ha perfettamente ragione. Creare un alone oscuro e di vortice di perdizione, secondo me aumenta ancora più il desiderio di buttarcisi dentro. Parlarne alla luce del sole, spiegarne anche l'aspetto semplicemente ludico, non può dire che tutti coloro vanno a giocare 5 euro a settimana al Super Enalotto o adesso al Win for Life abbiano davanti a sé l'abisso spalancato. Qualcuno ce l'avrà, qualcuno non ce l'avrà, ma lo stesso accade per chi frequenta comunità spirituali che ti portano via il cervello, chi frequenta amicizie deleterie, chi si innamora delle persone sbagliate. La vita è piena di insidie, questa potrebbe essere una delle tante, ma non mi sembra di averlo taciuto questo. No, però io credo che sarebbe importante spiegare che il gioco d'azzardo è un'attività economica che non crea ricchezza, come può fare un artigiano industriale, crea solo povertà, va a raschiare il fondo del barile. Ma però, scusi, non è vero, mi sembra che se è il 3% del PIL nazionale, è un'attività sì, che crea ricchezza. Per quanti vincono, quanta gente c'è che va sul lastico, quanti perdono? Fabio Felici. Ma io anche chi paga le tasse gli vengono sottratti soldi dal proprio reddito e quindi magari non può permettersi delle cose, e però nessuno vince giocando le tasse. Questa è una forma di tassazione dove magari qualcuno ha un certo modo di entrare. I soldi che finiscono a erario, come dicevi giustamente te all'inizio della trasmissione, che sono per la collettività, cioè quelli con cui ci si costruiscono le scuole, le strade, 8 miliardi arrivano dal mondo dei giochi. È una sorta, vogliamo considerare una tassa, va bene, però alla fine dell'anno ci sono quei 400-500 persone che vincono più di 1 milione di euro e che cambiano vita. Pagando semplicemente le tasse questo non avviene. È un piacere che, preso in piccole dosi, fa assolutamente bene. Io ricordo sono 30 milioni gli italiani che giocano, di questo si parla di 500-600 mila persone con problemi, quindi assolutamente vanno aiutati, seguiti. Ci sono strutture importanti, ce n'è uno qui a Roma all'Istituto Gemelli dove curano la compulsività da shopping, da sesso, da gioco, quindi vanno assolutamente seguiti. Però, come diceva giustamente Gianluca, se ci togliamo anche questo piacere, come prima la persona che è intervenuta dice, lavoro 12 ore al giorno, se passo mezz'ora al computer a farmi una partita di poker non mi sembra di uccidere nessuno. Ecco, nulla da aggiungere a quanto ha dato Fabio Felici, dando anche dei numeri. Di fronte a 30 milioni che giocano, non possiamo pensare che 30 milioni di italiani siano tutti sull'orlo del precipizio. Nel pieno rispetto comunque e con grande considerazione e senso di solidarietà verso questa attività ludica ha compromesso fortemente la propria integrità familiare e personale. Ci sentiamo domani.